edizione. Le 6, 12 minuti e 16 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Avete sentito poco fa Roberto Galullo che ci parlava delle inchieste sull'area grigia di collusione con l'Andrangheta a Reggio Calabria. Ebbene, è proprio di questa mattina un'operazione contro quella che viene definita l'area grigia, nella fattispecie non nella politica ma nel mondo dei professionisti. 11 ordinanze di custodia cautelare, una riguarda il commercialista Giovanni Zumbo, già in carcere perché coinvolto in altre inchieste. Un altro, la sorella del commercialista Patrizia Zumbo, il marito e un imprenditore che avrebbe svolto il ruolo di prestanome della cosca Tegano. Questa è la notizia di stamattina. Adesso c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per darvi un quadro delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. 6, 15 minuti e 18 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Vi ricordo poi che, come sempre, alle 7:20, subito dopo il giornale radio e poi il GR Sport, interverrà Alessandro Milan per tutti i dovuti approfondimenti. Iniziamo dal Corriere della Sera. Pensioni, ICI e lavoro, il piano di Monti è il titolo principale. Governo d'impegno nazionale, fiducia in Senato, 281 sì su 306 votanti. E poi un editoriale a firma di Dario Di Vico, i passi necessari. Il racconto della giornata parlamentare è di Gian Antonio Stella, l'aula dei rivali spinti a sopportarsi, e Sergio Rizzo pubblica un commento, una richiesta, un appello alla nuova squadra di governo: adesso siate trasparenti e pubblicate i redditi. Da segnalare anche proprio in merito alla trasparenza, ai possibili conflitti di interesse, una lettera aperta di Massimo Mucchetti a Corrado Passera, lettera aperta al banchiere ora diventato ministro. Da segnalare come titolo centrale i titoli europei sotto attacco. Torneremo su questo più avanti nel corso di prima edizione per fare un punto i mercati, capire se c'è qualche aspettativa particolare per la giornata di oggi. Lo spread francese tocca i 200 punti, quello spagnolo i 500, titoli europei sotto attacco, Merkel e Sarkozy si consultano con l'Italia. Questo è il titolo, e sempre sulla cosiddetta agenda Monti c'è un commento di Maurizio Ferrera, una sorta di indicazione per il nuovo governo: fisco, nidi, part-time, l'agenda per le donne. Come avrete sentito ieri, lo stesso Monti si è soffermato molto su questo tema, sul tema dell'occupazione femminile. La Repubblica, l'apertura è: non siamo il governo dei poteri forti. Poi più avanti faremo sentire anche questa voce di Mario Monti ieri nella replica al Senato. Monti al Senato, sacrifici equi, torna l'ICI, taglia le pensioni di anzianità, Berlusconi dura finché vogliamo noi. L'analisi di Curzio Maltese, la normalità della politica, e in retroscena è Silvio da i 100 giorni, elezioni a giugno. Centropagina, il titolo sulle proteste di ieri, gli studenti in piazza che dicono fuori i banchieri, un commento di Gad Lerner che parla di segnale da ascoltare. E poi interessante l'inchiesta che trovate di taglio basso sulla Repubblica: i negozianti sempre più nel mirino dei boss, 2000 euro al mese, il pizzo della tranquillità. E c'è anche se viene segnalata anche questa sorta di gaffe, se così vogliamo chiamarla, del neoministro, il neo ministro dell'ambiente Clini, che dice ripensare al nucleare. Il Sole 24 Ore, la cura Monti parte da fisco e lavoro, torna l'ICI, meno tasse su imprese e impiego, stop al dualismo ipergarantiti e precari. Il punto è a firma di Stefano Folli, l'europeismo del Premier e la via obbligata di Berlusconi. I commenti sono a firma di Guido Gentili, riformismo vero senza strappi, e di Alberto Orioli sul tema della coesione sociale, ponti più solidi contro gli egoismi. C'è anche una sorta di dizionario del programma di governo, quindi naturalmente troverete molte informazioni su tutto quello che è successo ieri sul Sole 24 Ore, oltre che un manuale di difesa dal contagio europeo. Tensione sui mercati, dai risparmi alle imprese, le risposte degli esperti. Questo è il titolo che troviamo oggi sul Sole 24 Ore. E ci sono proprio le domande che vengono fatte dai singoli settori della società, degli attori economici e politici del paese. Le imprese, quali sono i rischi per l'export italiano se dovesse continuare a salire lo spread di Spagna e Francia? Cioè si risponde anche a queste domande. I titoli di Stato tedeschi sono veramente sicuri? E ancora, è possibile affidare alla Banca Centrale Europea il ruolo di prestatore ultimo per gli stati dell'euro? Queste le domande e anche le risposte naturalmente troviamo sul Sole 24 Ore di oggi, che ha anche una parte dedicata agli ordini professionali nella legge di stabilità, cioè che cosa si prevede all'interno della legge di stabilità. La Stampa, l'apertura, il titolo principale: Monti, interventi su ICI e pensioni, ecco il mio piano, meno tasse sul lavoro e imprese, non siamo il governo dei poteri forti. Subito il dossier, subito Italia Palazzo Chigi, province, l'obiettivo è la totale abolizione, anche se i toni usati da Monti nel discorso di ieri sono stati diversi. Titolo del commento è: la ricetta che serve al paese, la firma è quella di Luca Ricolfi. Studenti in piazza contro le banche e la Bocconi, c'è una grande foto a centropagina. E però il commento è a firma di Stefano Lepri ed è l'indirizzo sbagliato delle proteste. Interessante anche il reportage che arriva da Pierangelo Sapegno, da Buenos Aires: Argentina dalla crisi al benessere, e si parla di quel che è successo, di quel che succede, 10 anni dal crack. E è interessante anche la storia che ci racconta sul calcio la Stampa, che segnala in prima pagina il business del calcio by night. Da stasera partite per 34 notti di fila, parte una serie record, 2 gare su 3 di A sotto i riflettori fino al 21 dicembre, sfidando il meteo. Il Messaggero, infine, per quanto riguarda i quotidiani italiani, poi daremo un'occhiata anche a quello che troviamo, a quel che troviamo all'estero. Interventi su ICI e pensioni è il titolo su Monti. Monti non è nell'esecutivo dei poteri forti, fiducia al Senato con 281 sì. I mercati, sottolinea il Messaggero, che cala lo spread italiano e sono sotto tiro Parigi e Madrid. E il commento è del nostro Oscar Giannino: la crisi drammatica dell'euro e la coppia Merkel-Sarkozy. A centropagina la politica, con Berlusconi che dice il governo dura fino a quando lo vogliamo noi, ma anche la segnalazione delle richieste che arrivano dalla Lega, e che tra l'altro al momento si configura come oggettivamente l'unico partito di opposizione. E quindi che cosa vuole la Lega? La Lega vuole il Copasir per una battaglia interna, il comitato di controllo sui servizi segreti. Di taglio basso vi segnaliamo anche interessante questa vicenda di cronaca: inchiesta su un farmaco killer proibito dal ministero e che arriva proprio da Roma. Pillola dimagrante, tre morti nella capitale, indagine sulle pillole per dimagrire. E poi un forum con Thomas Di Benedetto, il presidente americano della Roma. Come sapete, insomma, chi è tifoso romanista potrà darsi un'occhiata. De Rossi firma e Totti resterà a vita, dice Thomas Di Benedetto. Diamo un'occhiata a quel che troviamo sui quotidiani esteri, soprattutto su quelli economici dopo la giornata di ieri. Naturalmente il Financial Times apre con la Spagna e dice che la Spagna è stata spinta sul fronte della crisi dell'euro, in attesa naturalmente, e ve lo ricordiamo, che domenica si voti, perché in Spagna appunto domenica si vota. Il Wall Street Journal invece si concentra sulle compagnie europee, sulle aziende europee, perché arrivano già segnali abbastanza forti, evidentemente di stretta del credito, perché appunto c'è il costo per il finanziamento, per finanziarsi è più alto, e questo è il titolo che sceglie il Wall Street Journal. Ritorniamo sul tema ancora una volta della battaglia tra i repubblicani per aggiudicarsi la nomination, per lottare contro Barack Obama per la corsa alla presidenza. Abbiamo visto l'ascesa negli ultimi giorni di una vecchia volpe come Newt Gingrich. Che cosa succede? Succede che ha iniziato a parlare Gingrich di riforma sanitaria, e nel giro di 8 anni, ricorda il Washington Post, ha raccolto 37 milioni di dollari dalle principali compagnie che si occupano appunto di salute. Questo è il quadro, diciamo, dai principali quotidiani internazionali. Da segnalarvi che anche alcuni quotidiani inglesi, come per esempio il Telegraph, pubblicano un memo segreto che arriva dalla Germania e che viene pubblicato in occasione dell'incontro tra la Gran Bretagna, tra David Cameron e Angela Merkel, ed è un memo segreto nel quale si parla di una Germania che pianifica di far deragliare, così si dice, il referendum britannico sull'Unione Europea, e c'è un piano abbastanza preciso, appunto un memo segreto del Ministero degli Esteri tedesco, che dice, in sostanza parla di quelle che sono le prospettive per la Germania, le idee per la Germania, per l'Europa, a partire dalle sanzioni automatiche per chi sfora il patto di stabilità, ma anche della necessità di un'unione politica più forte. Prima edizione. Le 6, 34 minuti e 43 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, oggi è il 18 di novembre, quella che state ascoltando è Radio 24, è la prima edizione di Italia in controluce. La Lega di Governo si è dunque trasformata in Lega di opposizione, è una scelta politica, diciamo anche una scelta di posizionamento dopo il fallimento dell'alleanza tra Lega e Berlusconi. Il reportage di Cristina Carpinelli. Ma la Lega Nord ce l'ha duro, duro, duro! Tutto era iniziato più o meno così, tra slogan di dubbio gusto e incontri quasi celtici e ampolle d'acqua del nord. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Al grido di secessione, i vichinghi della bassa si erano sentiti uniti nello spirito e forse anche nel portafoglio. Questo però accadeva tanti anni fa. Molti furono allora i detrattori del partito di Bossi. Eppure, oggi, 3/4 dei deputati leghisti sono sindaci nei paesi del nord. Significa che, almeno in potenza, chi stava a Roma a governare aveva anche il controllo del territorio locale nel nord Italia, e questo poteva essere molto interessante come progetto, se non fosse che, a quanto ci raccontano i leghisti, Roma è come un malanno serio. Arrivi lì e ti trasformi in un vecchio affarista bisognoso di piazzare bene famiglia e affini nei posti che contano. Però questa storia, che è tutta colpa di Roma, non funziona più. I leghisti, la base, gli amministratori locali sono parecchio segnati da questi anni di convivenza con Silvio Berlusconi, come ci racconta Renato Roberto Miatello, sindaco di San Giorgio in Bosco, uno dei simboli del leghismo che funziona. Ci stava stretto restare in questo governo perché abbiamo dovuto mandare giù diversi rospi, come si dice, dalle nostre parti. E poi volevo fare anche una precisazione, no? E cosa vuole? Se tutti vanno a governare, ci vorrà pure un gruppo politico, un partito che faccia l'opposizione. Appena siete andati all'opposizione, dal coordinamento nazionale è partito il concetto di nuovo di secessione, però la sensazione, guardando anche i siti, ascoltando Radio Padania eccetera, è che i leghisti non è che l'abbiano presa bene, nel senso che si sono anche un po' sentiti presi in giro da questa cosa. Vuole la secessione, sicuramente cos'è, è un po' uno slogan secondo me, ma i leghisti, quelli che veramente credono che si possano cambiare le cose, certamente la secessione è un po' lontana dalla mentalità del leghista comune. Poi gli estremismi ci sono sempre, no? Però insomma, le persone che fanno politica, che sanno che la cosa è molto lontana di venire, insomma, oggi come oggi è un po' fuori portata, secondo me. Io glielo dico molto onestamente. E dicevo, sicuramente la base ha un qualcosa che magari i vertici non hanno, perché probabilmente abitando i palazzi romani hanno preso un po', non lo so, però anche a Pontida obiettivamente sì, hanno gridato secessione, ma era un po' una ripicca nei confronti del nostro leader per fargli capire che eravamo scontenti di come stavano andando le cose. Era Italia in controluce, torniamo oggi per la seconda edizione con Scuola in controluce di Piera Ceci alle 13.30. Sono le 6:38 minuti e 45 secondi, sentiamo qualche voce dalla giornata di ieri. Il discorso di Mario Monti ve l'abbiamo fatto sentire ampiamente, lo avete sentito anche nello speciale di ieri alle 13, poi ci torneremo tra poco nel GR per riassumere quello che ha detto anche dal lato del programma. Che cosa vi vogliamo far sentire adesso? Insomma, tanto si è parlato, lo avete visto anche dai titoli dei giornali, soprattutto ieri, di giornali di alcune aree, quest'idea che il governo Monti sia un governo dei banchieri, dei poteri forti, delle corporazioni. Ieri sera, nella replica al Senato, così ha risposto il Presidente del Consiglio. Solo un punto specifico vorrei aggiungere, se posso, per quanto riguarda l'atteggiamento del governo o di suoi membri nei confronti di iniziative, complotti dei poteri forti o delle multinazionali o di superpotenze negli Stati Uniti o in Europa, permettetemi di rassicurarvi totalmente, ma proprio totalmente, anche perché le nostre modeste storie personali parlano in questo senso. Quando a me è capitato, ma ci sono colleghi che anche hanno avuto responsabilità pubblica in momenti della loro vita, di essere commissario europeo a Bruxelles, non sono sicuro che le grandi multinazionali mi abbiano colto come un loro devoto e disciplinato servitore. Così Mario Monti. Noi sentiamoci qualche reazione politica al discorso di ieri, poi naturalmente oggi ce ne sarà da dire, perché ci saranno gli interventi alla Camera, quindi presumibilmente quelli dei leader. Iniziamo dall'ex presidente del Consiglio, dall'uomo che ha lasciato il posto a Monti, Silvio Berlusconi. PDL è compatto, esprimerà un voto di grande compattezza e quindi con la usuale correttezza sosterremo questo governo, naturalmente valutando le proposte che verranno presentate. Voi volevate che io mi ritirassi a scrivere le mie memorie, non lo farò. Così invece Pier Ferdinando Casini. Questo governo va appoggiato e assecondato coi singoli atti legislativi e nei singoli passaggi parlamentari. È un governo di salvezza nazionale, per cui bisogna essere coerenti anche coi sacrifici che la politica ha fatto per facilitare in ogni modo il governo che è in carica. Il leader del PD, Pierluigi Bersani. Nelle parole del presidente Monti abbiamo notato tutti la passione civile, abbiamo notato tutti l'orgoglio italiano, abbiamo notato tutti la volontà di mettere assieme parole come equità e crescita. L'abbiamo udito tutti. Adesso si tratta naturalmente di passare ai fatti, ma in un clima per noi positivo. Come sapete, resta all'opposizione la Lega, dunque sentiamo Castelli. Ma la Lega non ci ha soddisfatto, non ha detto nulla. Prima c'era la vulgata, la narrazione per la quale via Berlusconi i nostri conti sarebbero stati immediatamente messi a posto. Ci è stato detto per 10 giorni che lo spread saliva perché c'era Berlusconi e la borsa scendeva perché c'era Berlusconi. Berlusconi è andato via, è arrivato Monti, lo spread continua a salire e la borsa continua a scendere. È chiaro che bisogna assumere qualche misura urgentemente per fermare questa deriva, però di questo non ci ha detto nulla. Ecco, in realtà non proprio per smentire così subito Castelli, ieri qualche calo dal lato tanto degli spread quanto dei rendimenti dei titoli di Stato lo abbiamo avuto, Valeria De Rosa, no? Non c'è Valeria De Rosa in questo momento, mi dicono, allora ci prepariamo con la viabilità e poi appunto faremo il punto sui mercati. E non è pronta nemmeno la viabilità, dunque diamo qualche aggiornamento che sta arrivando in queste ore dalle agenzie. Iniziamo dalla Cina, dalla Birmania, ve ne abbiamo parlato poco fa, vi abbiamo detto che è arrivata una telefonata di Obama alla portavoce dell'opposizione, Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. Ebbene, la maggioranza dei delegati del principale partito dell'opposizione birmana, appunto quello guidato da Aung San Suu Kyi, si sono espressi oggi a favore di una nuova registrazione ufficiale del partito, un anno e mezzo dopo che il regime lo aveva disciolto. Quindi, come vedete, evidentemente i segnali di apertura da parte del regime birmano continuano ad arrivare. Si diceva, che abbiamo sentito Roberto Caselli che diceva arriva Monti, in realtà gli spread restano uguali. Non è stato esattamente così nella giornata di ieri, Valeria De Rosa, no? Sì, buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. Sì, non è stato così, nel senso che comunque il differenziale è sceso rispetto anche al giorno precedente. C'è però da dire che comunque su tutti i mercati, sul mercato obbligazionario in generale, c'è una fortissima tensione che non riguarda solo il nostro paese, ma riguarda e ha riguardato nella giornata di ieri sia la Francia che la Spagna. I differenziali nei confronti dei titoli di Stato di questi paesi nei confronti dei titoli di Stato tedeschi sono fortemente aumentati. Per quanto riguarda la Francia hanno superato quota 200, per quanto riguarda la Spagna quota 500. C'è proprio un problema a livello europeo che sta dilagando e che sta preoccupando fortemente non solo gli Stati Uniti ma anche il Giappone. Addirittura questa mattina il ministro delle finanze giapponese è intervenuto chiedendo alla Germania di mettere a punto un piano per cercare di arginare questo contagio che si sta allargando sempre di più. E sappiamo che ieri, sono indiscrezioni ovviamente non confermate, però dovrebbe essere così, Nicolas Sarkozy ha chiamato la Merkel per cercare di far pressioni sulla Banca Centrale Europea, perché da più parti si vorrebbe un intervento molto più forte della Banca Centrale Europea sul mercato, cosa che invece viene avversata fortemente da sempre dalla Germania. Quindi diciamo che le prospettive per oggi non sono positive, anche perché tutti i mercati asiatici in questo momento sono in calo, Tokyo è in calo, la flessione è abbastanza consistente, supera il punto percentuale, per cui diciamo che le prospettive per la giornata di oggi sui mercati non sono positive. Poi ovviamente noi non abbiamo la palla di vetro, quindi non sappiamo che cosa succederà. I mercati sono piuttosto, ci abituano ogni giorno a delle sorprese, però diciamo che le prospettive e le previsioni non sono positive. Vedremo vedremo che cosa succederà dunque nella giornata di oggi. Grazie a Valeria De Rosa, la viabilità, e poi parliamo di questa nottata di Occupy Wall Street. Prima edizione. Le 6, 48 minuti e 10 secondi, dunque facciamo il punto su quel che è successo questa notte, che forse sta ancora succedendo a New York. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno a te, Simone. Sì, a quanto vedo dai collegamenti, che sono, ce ne sono tanti tra l'altro, intasano spesso i computer, però ce ne sono tanti, ecco, da quanto vedo è ancora in corso, tra l'altro con un gran freddo a giudicare dalle immagini, perché tutti i partecipanti sono belli imbacuccati, insomma è notte ovviamente, però deve fare un gran freddo a New York. Cos'è successo nelle ultime ore? Le forze dei dimostranti, che erano stati sgomberati, ricorderete senz'altro, due giorni fa da Zuccotti Park, il loro centro di azione, ecco, le forze dei dimostranti si sono concentrate nella giornata di ieri e continuano ancora adesso per marcare i due mesi dall'inizio delle proteste di Occupy Wall Street. Era infatti il 17 di ottobre. Era stata di settembre, scusate, questa è stata proclamata la giornata dell'azione, quella di ieri. Ci sono stati cortei, proteste un po' dappertutto negli Stati Uniti, in particolare però a New York le cose sono andate in modo diverso, ci sono stati scontri e tafferugli. In queste ultime ore anche l'occupazione del ponte di Brooklyn in mezzo a un cordone di poliziotti. Questo è quello che accadeva poche ore fa. Sentite la polizia che dice appunto di stare fuori dalla carreggiata del ponte di Brooklyn per non impedire il traffico delle auto. Il corteo era composto, e qui tutto il mondo è paese, da, secondo le fonti, 10.000, 20.000 o 30.000 persone. È sfilato lungo la corsia pedonale mentre appunto un fitto cordone di poliziotti ha impedito ai manifestanti di attraversare la sede stradale e quindi bloccare il traffico. Al momento, per quanto ne sappiamo, è filato tutto liscio. In precedenza invece, come dicevamo, c'erano stati momenti di tensione, in particolare quando i manifestanti avevano tentato in ogni modo di forzare il blocco di polizia e dirigersi verso la sede della borsa di New York. In più di una occasione i poliziotti sono ricorsi alle maniere forti. Alla fine il bilancio, secondo i media, è di 250 persone arrestate, una decina di poliziotti feriti. Questo al momento la situazione, ma in evoluzione, Simone. Grazie, grazie Laura, vi aggiorneremo naturalmente nel corso dei giornali radio. Un ringraziamento a te, naturalmente a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci sentiamo tra un attimo con il GR.